iniziata e non si è mai fermata. Adesso che ricerco, adesso che ti penso, voglio dirti le parole, voglio darti il mio cuore, voglio dirti amore. Rimango me adesso, per te questa storia, e non può finire così, un istante. Tu sei la sola per me, questa vita assente, dove io vivo il presente. E mi manchi se non sei qui, insieme a me.